Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. A questo punto della mia vita è arrivato il momento di inaugurare una nuova strategia, meglio nota come strategia 3. Seems like New Year's Eve was yesterday, but spring has just begun, and I can still feel the summer sun. Emigrare. Visto che qui pare che non si muova niente, l'unica possibilità rimasta è quella di cercare fortuna all'estero. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Per aprire la nostra puntata, oggi abbiamo scelto l'audio del progetto Good Time for a Change, documentario realizzato da Danilo Melideo che racconta il fenomeno della nuova emigrazione giovanile usando l'arma dell'ironia, dalle strategie messe in atto per sopravvivere nel paese fino alla decisione di cercare altrove la propria felicità. Un pensiero va alla nostra università, dove la scorsa estate si è consumata una vera e propria guerra generazionale. La Corte Costituzionale ha restituito ai docenti accademici il diritto a chiedere una proroga di 2 anni oltre alla pensione. A 70 anni questo supplemento di tempo allontana la possibilità per un ricercatore di ottenere una cattedra e diventare ordinario. Per Giovanni Puglisi, rettore dello IULM a Milano, si tratta del salvataggio di una norma corporativa e protezionistica. Aggiungiamo noi, è semplicemente vergognoso. Ma usciamo ora dalla nostra piccola provinciale Italia e andiamo a respirare un'area veramente globale. Vi avvertiamo però tra poco l'intervista al ministro del lavoro Enrico Giovannini, ospite d'eccezione a Giovani Talenti. È un peccato che un paese con le nostre risorse e la nostra storia sia condannato a retrocedere nei ranking internazionali. È un peccato che menti brillanti non trovino gli sbocchi professionali che meritano e che dall'estero si riconosca sempre di meno quello di cui noi italiani siamo capaci. Alessandra Peliccia, 25 anni, è un analista nel settore della consulenza internazionale, basata a Singapore, ma con continue assegnazioni ai 4 angoli del pianeta. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario in versione speciale. E come vi abbiamo annunciato in apertura, ospite oggi a Giovani Talenti il ministro del lavoro Enrico Giovannini. Dal suo dicastero passano decisioni cruciali per il futuro di milioni di giovani. Per cominciare gli abbiamo chiesto: se lei oggi avesse 20 anni e fosse neolaureato, resterebbe in Italia o se ne andrebbe all'estero? Sentiamo. Sappiamo che la crisi ha colpito molto duramente, quindi all'estero è più facile avere opportunità di lavoro, soprattutto in alcuni settori, ed avere salari più elevati. Sappiamo che in Italia infatti mediamente i salari sono più bassi, quindi probabilmente quello che cercherei di fare è di avere un'idea di come il mercato in Italia, fare un'esperienza eventualmente all'estero e poi rientrare, perché ripeto, le opportunità sono notevoli anche in Italia. Lei definisce un investimento chiave quello sul capitale umano, un investimento che però stenta ad esserci, lo ha detto lei stesso, i giovani in Italia percepiscono anche meno reddito rispetto ai loro coetanei all'estero. Allora, quello che le chiedo è: il sistema produttivo italiano, la capacità di valorizzare e investire sui giovani, sono obsoleti? Abbiamo un sistema fatto in molti casi, in alcuni settori, di piccole imprese e sappiamo che nelle piccole imprese tipicamente gli stipendi sono inferiori a quelli delle grandi imprese perché la produttività nelle piccole imprese è inferiore a quella delle grandi imprese. D'altra parte dobbiamo investire molto di più nella formazione sul posto di lavoro. Finalmente nel 2010 oltre il 50% di imprese investono in formazione, nel 2005 era soltanto il 30%. La crisi evidentemente sta facendo capire alle imprese che investire sul capitale umano è una garanzia per avere più innovazione, più idee sul futuro, ma siamo ancora indietro rispetto ad altri paesi. Anche perché abbiamo un paradosso tutto italiano, pochi laureati rispetto al resto dell'Europa e poca occupabilità di questi laureati. È chiaro che un paese così rischia seriamente anche il proprio futuro. Noi veniamo da, anche prima della crisi, da 10 anni di crescita molto contenuta, quindi abbiamo dei problemi strutturali nonostante i casi di eccellenza. Per questo abbiamo bisogno di crescere di più e diversamente e in questo senso offrire opportunità non solo di stipendi all'ingresso più elevati, ma anche di prospettive di carriera più rapide. Infatti rispetto ad altri paesi la dinamica delle retribuzioni al crescere della seniority, diciamo così, delle persone che lavorano è, per i laureati in particolare, è inferiore a quella di altri paesi. Vuol dire che c'è una sottovalutazione, c'è una sottoutilizzazione di queste potenzialità. C'è un punto molto importante che è in arrivo, che è quello della garanzia dei giovani. Da gennaio l'Italia, anche diciamo per obbligo europeo, dovrà garantire entro 4 mesi dalla fine degli studi o dall'entrata in disoccupazione un'opportunità di lavoro o di formazione per i giovani. Allora, quanto è realistico però in un paese dove dai centri per l'impiego passa all'incirca un 3% di chi cerca realmente lavoro? La sfida è veramente elevatissima, mancano pochissimi mesi. Lei ha detto correttamente che è una sfida di tutta l'Italia, non solo del governo o di una regione o di una provincia che ha la responsabilità della gestione dei centri per l'impiego. Dal punto di vista del governo, noi stiamo disegnando la riforma dei servizi all'impiego insieme a province e regioni. Abbiamo stanziato fondi per oltre 80.000 tirocini formativi nel Mezzogiorno. Lei si prende l'impegno che da gennaio effettivamente tutti i giovani che ne hanno diritto avranno questi 4 mesi entro cui avere un lavoro o una formazione? Il mio impegno, ed è l'impegno non solo del Ministero ma di tutte le strutture che lavorano con il Ministero, è a preparare il progetto entro ottobre come previsto dall'Unione Europea. Come ho detto prima, però, è un compito immane. Abbiamo circa 80.000 imprese sopra i 20 addetti. Se ogni impresa prendesse 2 stagiaire all'anno, avremmo in qualche modo coperto tutta la potenziale platea dei giovani. Riagganciandomi alla domanda iniziale, ed è appunto l'uscita dall'Italia dei nostri migliori e più qualificati, se vogliamo, talenti, bilanciata, lo sappiamo, da pochi ingressi. Allargando il quadro, secondo lei è o no un problema per l'Italia anche in termini di perdita di classe dirigente futura? È un rischio che dobbiamo assolutamente fronteggiare. Il governo in questi giorni discuterà il cosiddetto programma Destinazione Italia, che è finalizzato a stimolare gli investimenti dall'estero e anche investimenti italiani su settori strategici, su settori assolutamente innovativi. Per questo abbiamo bisogno di fare i cambiamenti non solo nella legislazione, ma anche nella cultura, che deve essere molto più favorevole all'impresa, al fare impresa a tutti i livelli. Vorrei ricordare che in un mondo globalizzato non ci si deve sorprendere se giovani italiani vanno a lavorare all'estero, ma dobbiamo altrettanto essere in grado di attirare capitali dall'estero e anche capitale umano. Sempre a Giovani Talenti, Giovannini ha stimato in un potenziale di 100.000 le nuove assunzioni a tempo indeterminato di under 30 grazie agli incentivi annunciati dal governo fino al 2015, che sono pari a 794 milioni. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta in una dimensione del lavoro davvero globale. Partiamo da Singapore per un viaggio nell'emisfero sud del pianeta, accompagnati dalla protagonista di oggi. Nome: Alessandra. Cognome: Bellizza. Età: 25. Città di origine: Perugia. Studi: Economia e Management. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2012. Per andare dove? A Singapore. Perché? Offerta di lavoro. Quale lavoro svolge attualmente? Consulente strategico. Dove? Base Singapore, però progetto attuale in Colombia. Tornerai? Un giorno, mi piacerebbe poter tornare. Shine for Singapore, canzone celebrativa del piccolo stato insulare del sud-est asiatico, dove tu sei solo ufficialmente residente, e vedremo anche tra poco perché. Ad oggi sono molte le variabili che mancano al nostro paese per mantenere il passo, ma una tra tutte è l'umiltà. Alessandra, lo spunto che ci hai fornito chiudendo la lettera di presentazione a giovanitalenti@radio24.it è un vero e proprio elenco di comandamenti laici per un paese che ha perso la bussola e da troppi anni. Primo punto: basta con gli alibi. Ci riassumi di quale umiltà abbiamo disperatamente bisogno? L'umiltà di abbandonare la poltrona, ammettere i propri fallimenti, l'umiltà di lavorare duro, di fallire, di rialzarsi, di rischiare di nuovo, di ammettere che il nostro amato bel paese non è tanto più bello e di passare dalle elementari alle azioni. E infine l'umiltà di cercare in se stessi il problema prima di biasimare gli altri o pretendere una soluzione immediata e senza sforzo. La tua storia inizia in un paesino dell'Umbria con un percorso abbastanza comune, che passa dal liceo scientifico. A 18 anni ti trasferisci a Milano, studi management all'università Bocconi. Perché questa scelta? Sapevo di voler studiare economia, ma non ero del tutto consapevole delle opzioni al di fuori della città, e i miei genitori mi hanno presentato questa opzione e dopo qualche mese mi sono trasferita a Milano. La svolta arriva con lo scambio di studi semestrale trimestrale in Georgia, negli Stati Uniti. È incredibile quanto basti poco a menti aperte e disposte a mettersi in gioco per rendersi conto di quanto ci sia da scoprire in un ambiente internazionale, dici. Alla luce della tua esperienza americana, ti sei mai chiesta a posteriori se un'educazione universitaria all'estero ti avrebbe reso ancora di più in termini anche di curriculum? Tutto sommato sono felice delle mie scelte educative e di aver avuto l'opportunità di combinare studi italiani ed esperienza all'estero. Inoltre, per quanto passate in Italia, alcune università adottano un approccio accademico molto aperto internazionale. Basti che pensare che nel mio caso tutti i due anni di specialistica le lezioni e esami erano inglese, che più del 40% della mia classe era composto da non italiani. Purtroppo la qualità audio non è eccezionale, ma stai parlando anche dalla Colombia, ricordiamolo. Il tempo passa rapido, la laurea specialistica porta con sé altre due esperienze internazionali, la prima in Spagna, la seconda a Singapore, con uno stage presso una società di consulenza. Lavorando all'estero in un ambiente internazionale dinamico e in crescita, come il sud-est asiatico, mi sono resa conto di quanto si perda a rimanere in Italia, ci scrivi. Cosa si perde restando qui allora, Alessandra? Si perdono opportunità. In un ambiente dinamico come quello dell'economia si ha molto da imparare anche solo essendo esposti ad un contesto internazionale. Ricordo che questa considerazione possa essere molto legata al mio particolare profilo, ma si potrebbe pensare a molti ambiti in cui l'interazione con il mondo che ci circonda porterebbero molti benefici. L'ambito medico, per citarne uno. La cosa più interessante e sorprendente riguarda il paragone tra le due esperienze di stage che hai svolto durante gli studi, quella a Singapore e quella per una multinazionale americana a Milano. Stesso tipo di lavoro, ma esiti diversi. Cosa rende l'Italia un paese periferico, professionalmente parlando, per un giovane? Poca diversità. Mi sono trovata a lavorare per clienti italiani, con un team tutto italiano, composto da persone con molto simili. Questo a lungo termine genera una sorta di appiattimento e di chiusura che riduce il potenziale di apprendimento e di crescita. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Appena laureata accetti un'offerta a tempo indeterminato per la multinazionale di Singapore dove avevi svolto lo stage. Per quale posizione? Posizione di analista in una società di consulenza manageriale che opera nel settore di telecom media technology con un focus nei mercati emergenti. Hai mai pensato anche solo per un attimo di restare in Italia? Ho avuto altre opzioni in Italia e in Europa, ma dopo aver compiuto le esperienze di stage, dopo un'offerta di lavoro abbastanza indecente da parte di questa compagnia, ho deciso di partire. Offerta di lavoro indecente, è una bella definizione. Tra pochi mesi taglierai il traguardo del primo biennio al lavoro a Singapore, in realtà però nel sud-est asiatico ci sei rimasta pochissimo. Allora ci puoi fare un veloce riassunto delle tappe professionali che ti hanno portato fino in Colombia? Comincio a Singapore qualche mese, poi Malesia per 3 mesi, Filippine, poi Sudafrica per ben 7 mesi, dopo 2 settimane di ritorno a Singapore e dopodiché sono stata chiamata dal manager di un progetto qui a Bogotà e sono qua da giugno. E che effetto fa a soli 25 anni vedersi investita di importanti responsabilità in un contesto assolutamente internazionale con un dinamismo straordinario? Trovo molta motivazione nel tipo di lavoro che svolgo e questo fa sì che mi sveglio ogni mattina felice di cominciare una nuova giornata. Sono felice soprattutto perché guardo indietro e non ho rimorsi, rifarei tutto esattamente come l'ho fatto. Ed è in questo contesto che è maturato il tuo personale campanello d'allarme per l'Italia, un paese che nella tua visione dall'estero retrocede nelle classifiche internazionali e finisce dietro a paesi considerati fino all'altro ieri sottosviluppati. Perché suoni qui, in diretta nazionale, il tuo allarme per l'Italia? Perché è un peccato che un paese con le nostre risorse e la nostra storia sia condannato a retrocedere nei ranking internazionali. È un peccato che menti brillanti non trovino gli sbocchi professionali che meritano e che dall'estero si riconosca sempre di meno quello di cui noi italiani siamo capaci e il nostro potenziale. Sono l'allarme perché spero che un giorno ci svegliamo tutta la nostra inerzia e cerchiamo il cambiamento e facciamo quello di cui siamo capaci, sempre con un'attitudine costruttiva e con umiltà. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Sempre una questione di attitudine, come dicevo prima, ma anche tanto supporto dalle istituzioni. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alessandra Pelliccia, 25enne analista presso una multinazionale della consulenza con base a Singapore. Nella sua breve carriera, iniziata con una laurea all'Università Bocconi, Alessandra ha già viaggiato per 41 paesi con missioni lavorative che l'hanno portata in pianta stabile a Singapore, Filippine, Malesia, Sudafrica e Colombia, dove si trova. Dalla Sud America, Alessandra osserva un paese, l'Italia, che sta rapidamente perdendo posizioni nei confronti di nazioni considerate fino fino a ieri sottosviluppate e chiede una forte iniezione di umiltà ai suoi connazionali per ripartire. Ci raggiunge ora in linea Matteo Roncaglia, consultant per una società di consulenza strategica. Buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Matteo, nel tuo caso il link che ti lega ad Alessandra è duplice: in primis il percorso di studi, identico nel tratto finale, e in secondo luogo il fatto più sentimentale che tu di Alessandra sei il compagno. Allora, voglio essere un po' provocatorio. Nel vostro piccolo vi considerate un po' degli avamposti di un nuovo modello di generazione globale, sempre più mobili e sempre meno legati al piccolo mondo casa e chiesa che ha contraddistinto l'Italia fino a qualche anno fa? È in atto dunque un cambiamento culturale? Tendenzialmente direi di sì. Non mi considero un completo avamposto di Alessandra, perché comunque lavorando per una multinazionale sono anch'io esposto marginalmente a dinamiche internazionali. Lavoriamo con clienti a livello europeo e mondiale. Sicuramente il livello a cui è esposta Alessandra è assolutamente maggiore rispetto a quanto posso essere esposto io lavorando ancora dall'Italia. Comunque la vita per i giovani professionisti sempre più mobili sta cambiando tanto, per fortuna. Per fortuna, senza ombra di dubbio. Anche la tua carriera di studi e professionale, Matteo, è stata improntata a una visione, appunto, lo dicevi, internazionale, con uno zenith rappresentato dall'esperienza a Dubai. Ce la riassumi brevemente? Brevemente, ho passato 3 mesi a Dubai, lavoravo per un'azienda italiana che si era trasferita a Dubai molti anni prima, ancora prima che scoppiasse il boom di Dubai, un'azienda che operava nel settore dell'interior design e ovviamente, avendo competenze economiche, mi occupavo più del lato commerciale. A differenza di Alessandra, però, dopo la laurea si è presentata per te l'opportunità di lavoro presso un'azienda multinazionale a Milano. Qui le vostre strade si separano, professionalmente tu resti in Italia, Alessandra vola all'estero. Cosa ti ha spinto a scegliere di restare qui? Sicuramente, sai, mi ero laureato da neanche un mese, ho ricevuto un'offerta di lavoro per questa grande multinazionale. Di sicuro il brand dell'azienda ha avuto sicuramente un ruolo decisivo nel farmi rimanere almeno temporaneamente in Italia. All'inizio mi erano state prospettate possibilità di carriera internazionale anche abbastanza veloce, e invece adesso, dopo un paio d'anni, un anno e mezzo, sono ancora rimasto in Italia. A distanza di pochi anni, però, la voglia di lasciare il paese è forte anche per te, dal punto che stai lavorando per ottenere un trasferimento. Allora, perché andarsene? Perché, Matteo, l'Italia non è un terreno di gioco professionalmente interessante per un giovane ventenne di ottima formazione con un background internazionale? Ho potuto notare in questo anno che le opportunità, diciamo, da qui a 3-5 anni a cui lei è esposta non sono minimamente paragonabili a quelle a cui sono esposto io. Lascio stare l'aspetto economico, che si spiega da solo, ma proprio a livello di crescita e rapidità di crescita come potenziale manager o come potenziale lavoratore, lei sicuramente ha possibilità davanti ben più grandi. E questo, aggiungo io, è un refrain, un ritornello che torna continuamente. Ma io mi chiedo perché in Italia non si riesca a crescere alle stesse velocità, e giro un po' anche la domanda a te, Alessandra. Ti chiedo, ma se tutti i nostri giovani qualificati, brillanti di cultura internazionale come te, Matteo, se ne vanno, chi resta qui a disegnare un futuro per questo paese? Non rischiamo di finire ancora nelle mani di quella stessa classe dirigente che ci ha trascinati alla deriva? Beh, io non la vedrei così negativa per 2 motivi. Per fortuna c'è sempre una buona parte di talenti che, per ragioni diverse, è ben disposta a rimanere in Italia. Inoltre, se tutti i giovani espatriati come me e Matteo tornassero un giorno in Italia portando con sé esperienze e conoscenze dall'estero, sono sicura che questo nel lungo periodo potrebbe essere un bene per il paese. Matteo, condividi lo stesso ottimismo? Assolutamente sì, per quel poco che posso aver notato io lavorando ancora un anno e mezzo in Italia, è una cosa che noto tantissimo in aziende, soprattutto piccole e medie imprese, è il fatto di essere resti al cambiamento. Non c'è apertura verso il nuovo, non c'è l'apertura verso ipotetici nuovi modelli di business, per cui se giovani che magari sviluppano competenze all'estero un domani potessero tornare in Italia e trapiantarle in aziende piccole e medie del suolo nazionale, secondo me è la soluzione ideale. Grazie a Matteo Roncaglia e in bocca al lupo, ovviamente. E domanda di rito ad Alessandra Pelliccia: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Io lo inviterei prima di tutto a fare chiarezza sulle proprie priorità, in caso a provare. In generale è molto più facile tornare in Italia dopo un'esperienza all'estero che partire dall'Italia e tentare l'espatrio quando subentrano altre priorità, come la famiglia per esempio. Tentare non nuoce. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: Un capo unità all'ufficio europeo antifrode Olaf a Bruxelles, scadenza per CV 30 settembre, info su europa.eu/epso. Un addetto stampa per l'organizzazione WaterAid in Gran Bretagna, scadenza per CV 26 settembre, info su wateraid.org/UK. E infine un senior researcher sulla legislazione sportiva europea e internazionale all'Asser Institut dell'AIA in Olanda, scadenza per CV 15 ottobre, info a hrm@asser.nl. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Sono sempre di più i blog aperti da giovani emigrati italiani all'estero per raccontare la propria storia di espatrio e fornire indicazioni utili a chi intende compiere scelte analoghe. Uno dei più recenti è Ein Espresso Bit, piccolo breviario di informazioni necessarie all'espatrio in Germania. Simona Luddeni, ideatrice del blog. Ein Espresso Bit nasce a gennaio di quest'anno dalla mia esigenza di comunicare, diffondere informazioni e spronare la gente. Far capire ai ragazzi che il futuro che gli è stato levato se lo possono riprendere e se lo devono riprendere. Nasce anche da un'esperienza di espatrio, immagino. Tu sei emigrata, come migliaia di altre connazionali, in Germania. Esatto. Circa 2 anni fa io e mio marito ci siamo spostati in Germania, dall'Italia, per riprenderci il nostro futuro. Cosa vuoi dire quando dici riprenderci il nostro futuro? Vuol dire che noi non veniamo da una storia di disperazione, nel senso che ambedue avevamo un lavoro a tempo indeterminato, ma quando ci guardavamo in faccia e pensavamo a un figlio, non vedevamo il futuro per un figlio. E cosa racconta Ein Espresso Bit? Racconto dei posti che visito, do informazioni in ambito lavorativo. Diciamo che sto con una gamba tesa in Italia e non in Germania, per dare informazioni alla gente che vuole espatriare dal punto di vista della società, del lavoro, dei costumi, degli usi, delle abitudini. E che Germania è, in due parole, la Germania che vedi oggi? Una terra di opportunità. Cosa ti chiedono i lettori del tuo blog? Molti mi chiedono informazioni sulle difficoltà che si possono riscontrare nell'espatrio, sulle difficoltà per quanto concerne l'imparare una nuova lingua. Altri semplicemente mi chiedono della mia vita, come mi trovo, quanto ci ho messo a integrarmi e così via. Noti una voglia crescente di espatrio, di uscita, fuga dall'Italia negli ultimi mesi? Tanta, tanta. Io ho aperto il blog a gennaio. Da gennaio ad adesso i blog che riguardano l'espatrio e la condivisione di informazioni sono triplicati. I gruppi di italiani che parlano di questo sono triplicati. La gente ha voglia di andare via perché non vede più un futuro, perché non vede più una speranza e quindi cerca informazioni sul web. Sono giovani soprattutto o non solo? C'è un po' di tutto. Una curiosità, perché hai scelto come titolo un espresso per favore? È la prima frase che ho imparato quando sono venuta a vivere in Germania. Quando andavo nei bar è la prima cosa che mi è stata insegnata. Mi fa sentire un po' italiana e un po' tedesca. Ci sono molto affezionata a questa frase. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.einespressobit.com. Un motivo per restare o tornare. Un manifesto in 10 punti per chiedere disposizioni che mettano l'università italiana in condizioni di competere con quelle degli altri paesi OCSE. Questa è l'iniziativa dei rettori di 3 atenei milanesi, Andrea Sironi della Bocconi, Gianluca Vago della Statale e Giovanni Azzone del Politecnico, i quali accusano il problema non è la fuga dei cervelli, ma la mancata attrazione di studenti o docenti stranieri. Nel 2010 60.000 italiani si sono iscritti a una facoltà oltre confine, più 40% sul 2008. Degli oltre 4 milioni di studenti internazionali immatricolati all'estero, l'Italia ne attira solo l'1,7%. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Riparte l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è emigrare o restare. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di settembre è: l'ultimo Consiglio europeo ha varato il pacchetto per il lavoro dei giovani, l'Italia ha lanciato il proprio piano per l'occupazione giovanile, tempo di restare e investire nel paese o non basta? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.